falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Le persone che sono sintonizzate fisse su Radio 24, e per fortuna sono tantissime, sanno che tra un po' si riparlerà, magari tra un'ora o tra mezz'ora, di borsa, di azioni, di titoli, quindi in qualche modo di tutto ciò che è legato al denaro. Se ne parlerà ovviamente in maniera seria, però il denaro ingolosisce e in qualche modo rende il mondo pieno di persone che cercano di fare fortuna utilizzando scorciatoie, e anche il mondo della finanza a volte, se usato in maniera spregiudicata, soprattutto in alcuni anni, è diventato una scorciatoia pericolosissima, e quindi ci sono persone che hanno guadagnato soldi in fretta, hanno cambiato stile di vita, aerei privati, yacht e oppure addirittura droga e cose di questo genere. Bene, noi di personaggi di questo tipo ne conosciamo parecchi. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un uomo che ha creato la sua fortuna grazie alle sue indubbie capacità di vendita, grazie al suo pelo sullo stomaco. È un uomo che ha raccontato poi la sua storia, perché la sua epopea è poi finita molto in basso. Bene, a Hollywood qualcuno ha deciso di farne un film e il suo nome, il nome dell'uomo, è Jordan Belfort, meglio conosciuto come The Wolf of Wall Street. Il mondo degli investimenti può essere una giungla. Tori, orsi, pericoli a ogni angolo. Ecco perché noi della Stratton Oakmont ci vantiamo di essere i migliori. Professionisti addestrati a guidarvi nella terra selvaggia della finanza. Stratton Oakmont. Stabilità. Integrità. Orgoglio. Il lupo di Wall Street, The Wolf of Wall Street. Questa è la scena iniziale del film uscito nel 2014 per la regia di Scorsese con un grandissimo Leonardo DiCaprio, che fa proprio la parte di Jordan Belfort, tratta dal libro scritto da Belfort, una specie di autobiografia in cui lui ha raccontato quel suo periodo così particolare. Il film probabilmente presenta esagerazioni, licenze di sceneggiatura, però capirete alla fine che non è che si possa fare affidamento neanche su quello che lo stesso Belfort ha raccontato, perché in realtà siamo alla presenza di un venditore di fumo che probabilmente anche quando parla di se stesso ne parla in maniera un po' distorta. Intanto quest'uomo in neanche 10 anni è riuscito a guadagnare milioni di dollari truffando piccoli investitori che affidano i propri risparmi a persone spesso senza scrupoli. Erano le 9:30 in punto del 4 maggio 1987. Il mio esordio a Wall Street. Nella sala si scatenò il pandemonio. I piedi volarono giù dalle scrivanie. I Wall Street Journal furono archiviati nei cestini. Le maniche delle camicie furono arrotolate al gomito. A uno i broker cominciarono a prendere il telefono e chiamare. E cominciai anch'io. Jordan Belfort ha solo 22 anni quando inizia a lavorare come broker per un importante agente di cambio di New York. È figlio di due ragionieri, ha in tasca pochi dollari, però ha una quantità spropositata di arrivismo e di ambizione. Vuole sfondare, avere successo, fare i soldi, e più o meno come tutti quelli che ha seduti accanto sono broker che vivono giornate intere al telefono cercando di guadagnare le commissioni sulle vendite delle azioni. Commissioni molto basse, l'1 il 2% sulla transazione, quindi bisogna lavorare parecchio, però lui ha molta voglia di imparare e di crescere. You keep us like rats, when you tell them we're brats, and the fresh twist our fists, and the other is missed. arrivarono il lunedì nero. Sul serio. Entro le 4 la borsa aveva perso 508 punti. Il più grande crollo dal 29. Conosco la tua famiglia e tu conosci la mia. No, non lo so, un qualche paese del cazzo in Europa è crollato. Ma che facciano quello che cazzo vogliono, il nostro mercato... No, porca troia. Da non crederci. Il mio primo stramaledetto giorno da broker. Entro un mese, LF Rothschild, un'istituzione dal 1899, chiuse i battenti. Wall Street mi aveva ingoiato per poi risputarmi con un calcio in culo. 19 ottobre 1987. A Wall Street, la sede della borsa di New York, accade un vero e proprio terremoto inaspettato. La borsa, sulla scia delle borse asiatiche, subisce una massiccia ondata di vendite, uno tsunami che cresce d'ora in ora. Alla fine della giornata la borsa di New York avrà perso più del 22%, vanno in fumo milioni e milioni di dollari, saltano alcune storiche società di intermediazione, travolte da quella che è stata la crisi più profonda da quella mitica del 1929. A subirne le conseguenze ci sono molti giovani broker che rimangono senza lavoro da un giorno all'altro. Uno di questi è il nostro protagonista, Jordan Belfort, che come tanti altri è costretto a ripartire da capo, anzi a leggere gli annunci di lavoro sul giornale per trovare un'alternativa che gli permetta di mantenere la moglie, che peraltro ha sposato da pochissimo. L'unica alternativa valida è quella di andare a lavorare in un investor center, che è una specie di società di consulenza dove vengono trattate le penny stock, cioè azioni di società non quotate in borsa. Sono società ad alto rischio perché si può guadagnare molto ma anche perdere. Di solito chi acquista sono famiglie che cercano un modo per arrotondare, investono i risparmi e quasi sempre la loro ingordigia li porta a perdere tutto. Accidenti, lo spread su questi è enorme. Sì, e questo è il punto. Scusa, come ti chiami? Io? Jordan Belfort. Jordan, quanto ci fai con le azioni blue chip? Ci faccio l'1%, cioè ci facevo l'1%. Con le penny stock è il 50%. Il 50%? 50% di commissione? Esatto. Per cosa? È il nostro markup per i servizi che diamo. Allora se vendo $10,000 di azioni, la mia commissione è di $5,000. E non importa se il cliente perde o guadagna, il broker guadagna sempre, la commissione è altissima, quindi Jordan Belfort, che ha fatto esperienza a Wall Street, ci sa fare, si accorge delle potenzialità di questo meccanismo perverso, soprattutto per l'acquirente, ma ottimo per il venditore. Comincia a guadagnare una somma di denaro consistente, in poco tempo inizia a insegnare anche agli altri le sue tecniche di vendita. Tu puoi vendere di tutto? Sì, bene, certo, vendimi questa penna, cazzo. Vendi di tutto? Coraggio. Vendimi la penna. Posso finire di mangiare, sono digiuno. Brad, fagli vedere come si fa. Forza, vendimi la penna. Guardate, vai. Devo vendere questa penna. Sì, dai, fammi vedere. Questa penna. Lui vende tutto. Mi faresti un favore? Scrivi il tuo nome su quel tovagliolo. Non ho la penna. Eccola, basta che domandi, no? Avete visto? Ha creato un bisogno. Li portate a voler comprare le azioni. Li convincete che ne hanno bisogno, capite che voglio dire? Jordan Belfort capisce subito che il primo passo per espandere i suoi affari è quello di agganciare i grandi investitori, gente che è ricca, che già investe in borsa su azioni magari più tranquille e che però vuole rischiare i 10-20 mila dollari così per gioco, quasi come andasse al casinò. Però per parlare con questo tipo di clienti bisogna presentarsi diversamente. Così fonda la Stratton Oakmont, che è una società nuova con un nome altisonante, è un leone nel logo e alle spalle una banda di truffatori, di furbetti, chiamateli come volete, che rifilano titoli spazzatura a clienti sempre più ricchi, guadagnando commissioni sempre più alte, e il gioco è fatto. E il colpo d'ala perverso di Jordan Belfort è proprio questo, moralmente discutibile, ma che lo fa diventare molto ricco in pochissimo tempo. Il suo nome comincia a circolare anche a Wall Street, tant'è che anche Forbes, la prestigiosa rivista economica, lo contatta per un'intervista, ma non lo fa per celebrare i suoi successi. Una stroncatura in piena regola. Quella troietta lecca culo! Guarda qua, mi chiama il lupo di Wall Street, guarda! Però ti stanno bene i capelli. Ah, mi stanno bene i capelli? Sì. Jordan Belfort sembra un perverso Robin Hood che ruba ai ricchi per dare prima di tutto a se stesso e poi alla sua allegra combriccola di broker. Ecco, leggilo. Senti, io so che non esiste la cattiva pubblicità, amore. Leggi l'articolo prima. Jordan, sei venuto bene. Sei su un giornale importante. Sai che me ne frega se sono venuto bene. E invece si sbaglia, non c'è miglior pubblicità della cattiva pubblicità, che è la celebre frase di Andy Warhol e si addice perfettamente alla Stratton Oakmont di Belfort. Grazie alle critiche pubblicate su Forbes riceve una pubblicità inaspettata, fa raddoppiare i volumi d'affari e lui ormai è un uomo ricchissimo. Guadagna decine di migliaia di dollari al giorno, per lui inizia un periodo in cui è molto difficile mantenere il contatto con la realtà. Auto, elicotteri, ville, donne, sesso, e tutto infarcito da un ingrediente fondamentale e insostituibile che Belfort aveva conosciuto fin dal suo primo giorno a Wall Street. Sì, in una giornata consumo droga sufficiente a sedare Manhattan, Long Island e Queens per un mese. Buona giornata. Prendo Qualud 10 o 15 volte al giorno per il mio mal di schiena, Adderall per restare concentrato, Xanax per allentare la tensione, erba per rilassarmi, cocaina per una nuova sferzata e morfina, perché è eccezionale. Buongiorno Nathan. Anfetamine, cocaina, Xanax, Belfort, è il prototipo perfetto dello yuppie di fine anni Ottanta, anche perché si va avanti e indietro, no? Droga eccitante per portare avanti la baracca, come dice lui, insomma, per lavorare, e poi droga calmante per riuscire a dormire qualche ora la notte. Alla Stratton Oakmont lavora un concentrato di giovani come lui, arrivisti che pensano solo a come fare i soldi, a come spenderli in droga, in sesso. Sulle scrivanie c'è sempre una quantità di cocaina accanto alle matite e alle penne. Lui si trova addirittura costretto a vietare o a sconsigliare i rapporti sessuali durante il normale orario di lavoro, perché si vive in un mondo che è al di fuori della realtà, un mondo dove tutto sembra permesso. Si vive una vita come quella che sta vivendo lui, Jordan Belfort, che compra una villa principesca direttamente dal presidente della borsa di New York, che ha un intero garage di Ferrari e di Lamborghini, ha uno yacht da 52 metri con l'elicottero sul tetto. Quando si vive circondati da donne bellissime è inevitabile attirare l'attenzione, e questo è un mondo nel quale si può vincere, ma è sconsigliabile stravincere. E se poi a qualcuno viene il dubbio che i tuoi affari non siano del tutto leciti, ecco che le attenzioni diventano indagini, non sei più protagonista dei giornali di gossip, ma dei rapporti dell'FBI. C'è un agente in particolare che si chiama Gregory Coleman, che, sconcertato dal numero crescente di persone che sporgono denuncia contro la società di Belfort per essere stati truffati, inizia una guerra personale per far chiudere i battenti alla Stratton Oakmont. Sa, Jordan, le dico una cosa, quasi tutti quegli stronzi di Wall Street che ho messo dentro, sì, erano tutti nati bene. Ah, è così? Sì. I loro padri sono dei bastardi, come i loro padri prima di loro. Ma lei, lei, mio caro Jordan, questa strada l'ha presa da solo. Ah, sì? Ma rimane un poveraccio. Poveraccio? Niente di più. Sarei io il poveraccio. E lasci che le dica un'altra cosa. Onestamente, e non dico cazzate, questa è una delle più belle barche sulle quali sia mai salito. Glielo devo dire. Dubito. E sa che altro stavo pensando? A che razza di supereroe diventerò in ufficio? quando l'FBI confischerà questa cazzo di barca, perché fotti oggi, fotti domani, gliela confischerò. La Stratton Oakmont viene messa sotto osservazione anche dal SEC, Security and Exchange Commission, la Consob americana, l'organo, diciamo, di vigilanza di borsa che controlla che non vengano fatte irregolarità sulla compravendita delle azioni. E lui di irregolarità ne sta compiendo un'enormità, è sempre al limite, perché per reinvestire i soldi che guadagna crea nuove società di cui vende azioni, manovra capitale, insomma fa esattamente tutto ciò che in borsa è tecnicamente vietato, diciamo le famose scatole cinesi. Preso tra due fronti, Jordan Belfort deve trovare un modo per affrontare le emergenze, un piano B per salvare buona parte degli enormi capitali che ha accumulato. Comincia a consultare le carte geografiche e trova una buona soluzione che si chiama Svizzera. Raccontando la storia del lupo di Wall Street al secolo Jordan Belfort, un uomo che dal nulla ha creato un impero finanziario e che è a tutti gli effetti stato un truffatore, uno di quei broker finanziari che convincono a investire nei cosiddetti titoli spazzatura che poi si rivelano essere carta straccia per gli investitori. Belfort su ognuna di queste operazioni guadagna commissioni altissime. In pochi anni ha accumulato un patrimonio di svariati milioni di dollari. Dal momento che sia le autorità fiscali sia l'FBI stanno indagando su di lui, decide di esportare buona parte dei suoi capitali, guarda guarda, in Svizzera, grazie a alcuni banchieri molto disponibili. Per trasportare fisicamente i soldi si affida a stratagemmi molto creativi, come per esempio imbottire i reggiseni della moglie o delle mogli dei suoi collaboratori di mazzette di banconote, come viene anche raccontato nel film di Scorsese, magari con qualche esagerazione tipica di Hollywood. Il giorno dopo zia Emma volò a Ginevra, 2 milioni in contanti nel beauty case, che tutto sommato erano una goccia nel grande secchio della Svizzera. Perché il mese successivo, nel corso di 6 viaggi, Chantal e la sua famiglia contrabbandarono più di 20 milioni in contanti, senza un'alzata di sopracciglia. Grazie a una rete di prestanome, Belfort mette in cassaforte la sua pensione, anche se in realtà lui non è ancora in età pensionabile, perché i fatti che stiamo raccontando avvengono quando lui ha poco più di 30 anni. Però non c'è da stupirsi, perché di tutti i suoi dipendenti sono pochi quelli che superano i 30-35 anni. Un mondo di soldi, di sesso, di droga, nel quale però avere guai con la giustizia è molto facile. Così, dopo anni di indagini, di intercettazioni, alla fine l'FBI riesce a risalire ai conti svizzeri di Belfort e lo incrimina. Un capo d'accusa per collusione in frode di titoli. 2 capi per frode di titoli. Un capo d'accusa per collusione in riciclaggio di denaro. 21 capi d'accusa per riciclaggio di denaro. Un capo per ostacolo alla giustizia. La cauzione è fissata a 10 milioni di dollari. E Belfort a questo punto si trova con le spalle al muro, rischia 20 anni di galera, il sogno sembra finito. L'unica via d'uscita gli viene proposta dall'FBI, che gli offre di collaborare con la giustizia, di indossare dei microfoni, di incastrare i suoi più stretti collaboratori. L'FBI non vuole accontentarsi di aver preso il capobanda, vuole smontare pezzo per pezzo il castello di carte che Jordan Belfort ha costruito in neanche 10 anni di attività. Porush è il vicepresidente della Stratton Oakmont. È il primo che Belford ha convinto a collaborare con lui. È il primo a cui ha insegnato le sue infallibili tecniche di vendita. È l'uomo che in questi anni ha condiviso con il lupo di Wall Street il magico mondo della finanza, farcito da un uso esagerato di droga. Nel libro vengono raccontati alcuni aneddoti su Porush. Lo dipingono come un uomo senza scrupoli, come quella volta che ingoia un pesciolino rosso di un dipendente reo di essersi distratto per dargli da mangiare durante un'importante transazione finanziaria. L'FBI vuole incastrare anche lui perché sa che in questo modo verrebbero a galla tutti i segreti che Belford ha nascosto in questi anni. Belford lo incontra indossando un microfono nascosto, ma passa a Porush un biglietto nel quale avverte l'amico di quello che sta facendo. E in questo modo vuole mostrarsi leale con lui, salvare il salvabile, ma ha fatto male i conti perché Porush il giorno dopo si costituisce all'FBI e rivela lo stratagemma del biglietto. Proprio amici uno con l'altro, amici per sempre come i. A questo punto Belford, tradito anche da suo miglior amico, non ha più scampo. Ti devi subito vestire. Perché? Che cazzo succede? Vai in galera. Così nel 98, 9 anni dopo aver iniziato la sua carriera di broker lontano da Wall Street, in un piccolo ufficio di Long Island, dopo aver creato un impero finanziario di oltre 200 milioni di dollari, Jordan Belford viene arrestato. È stato tradito anche dal suo miglior amico e collaboratore, così decide di parlare, di fare i nomi di tutti i colpevoli. Muoia Sansone con tutti i filistei. Vuole distruggere la sua creatura, la Stratton Oakmont, la società che lui ha creato. E il tutto giusto per ottenere una serie di sconti di pena. Alla fine viene condannato a 3 anni di carcere, rimane in prigione solo 22 mesi, durante i quali racconta la sua storia in un libro, dal quale viene appunto tratto il film, è interpretato da Leonardo DiCaprio. Tutti i proventi del libro e del film però vengono automaticamente sequestrati, non siamo mica in Italia. Le autorità li trattengono per rimborsare gli investitori truffati da Belford. La cifra di questo risarcimento si aggira attorno ai 110 milioni di dollari, quindi questo libro ne deve vendere di copie per farlo andare in pari. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Oggi Jordan Belford è un signore affascinante di 50 anni che tiene seminari motivazionali in giro per il mondo, ha pagato il debito con la giustizia, non ha ottenuto ancora una autonomia finanziaria perché in tutto quello che guadagna c'è sempre da togliere una parte molto cospicua per ripagare le centinaia di investitori truffati. Però il mondo di Wall Street lo considera comunque uno dei migliori broker degli ultimi decenni e il suo colpo d'ala è stato quello di cambiare direzione, di abbandonare la ricerca sfrenata di un facile successo fatto di donne, di soldi, di droga, per insegnare alle nuove generazioni le tecniche di vendita. E certo è un colpo d'ala provocato, perché se non l'avessero beccato probabilmente sarebbe ancora adesso in mezzo a milioni di dollari e cocaina. Però apprezziamo comunque la redenzione tardiva e le tecniche di vendita che lui insegna in qualche modo servono anche ad altri ragazzi che, ahimè, temo vogliano diventare come lui. So bene che le esigenze cinematografiche hanno enfatizzato molti aspetti del mio personaggio che non corrispondono alla realtà, e so anche che non posso essere fiero di quello che ho fatto, ma ciò di cui sono veramente fiero oggi è il fatto di essere riuscito a ricostruire la mia vita, imparando dagli errori e facendo tesoro delle esperienze negative che ho vissuto. Alle accuse che gli vengono poste nelle varie interviste sul fatto che lui comunque abbia rovinato la vita di molte persone che hanno perso tutto quello che avevano per seguire i suoi consigli, Belford è stato molto chiaro e devo dire non posso dargli totalmente torto, ancora è convinto di non avere fatto nulla di male. No, non è vero, io non ho ridotto sull'astrico nessuno. Non posso garantire per quel che è accaduto dopo il 95, quando formalmente ho lasciato la presidenza della società, ma per quel che mi riguarda, le persone che hanno accettato le mie offerte lo hanno fatto perché volevano guadagnare in modo facile e questo comportava dei rischi. Loro erano a conoscenza dei rischi che correvano. Forse qualcuno ha perso dei soldi, ma di certo non sono stato io a ridurli sul lastrico. Eh sì, e io sono d'accordo in questo caso, perché è vero che queste persone sono state truffate, ma erano tutte persone che volevano guadagnare i soldi in maniera facile, che pensavano di fregare gli altri, un po' come quelli che prima vanno dal mago, spendono dei soldi e poi si lamentano perché il mago non li ha fatti vincere al Totocalcio e si ritengono truffati. In realtà queste persone hanno, come dire, base fertile proprio perché ce ne sono altre che vogliono farcela a tutti i costi a guadagnare dei soldi semplicemente. Oggi Jordan Belfort ha guadagnato una nuova stagione di popolarità grazie alla sua storia e noi pensiamo che la sua storia non è né la prima né l'ultima di una serie lunghissima di storie di truffe finite comunque male, però i truffatori non esisterebbero se non avessero qualcuno da truffare. Poi ci sono i Jordan Belfort e altri, quelli così che lavorano sul piccolo, quelli sono veramente spregevoli, quelli che entrano nelle case per convincere la persona anziana a consegnare i risparmi, insomma, ma quelle sono veramente persone di bassa lega. Almeno Jordan Belfort ha fatto le sue truffe con delle persone che i soldi già li avevano e li hanno semplicemente consegnati a lui. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di scriverci, segnalarci se avete voglia che noi si parli di qualche argomento piuttosto che di qualche altra cosa. Fatelo al falcoelgabbiano@radio24.it. Se vi siete persi qualche trasmissione, ricordate che c'è il podcast, ve le sentite tutte, c'è anche un'app per il telefono che è fantastica. Se volete interagire con me, mi trovate anche sui miei social e sui nostri. Insomma, se volete, possiamo stare più vicini di quanto pensate. Ciao, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.